suole. Ciascuno è libero nella sua stessa gabbia di cinguettare sopra un davanzale, sbozzare nudo senza alcun pudore, chi si indigna può guardare altrove. Ciascuno è libero di far come gli pare, bruciar di pace, odio e religione, sputare in faccia schemi ed ideali, ma soprattutto a chi non dà ragione. Ciascuno è libero nella propria galera, da miserabile o da gran signore, che siedi un panfilo in angusta stanzetta, esercitar diritto di prigione. Ciascuno è libero di far la prima scelta, avere torto anche se avrà ragione, di sbriciolarsi al muro della testa, in viaggio eterno e non contar le ore. Sopra i vetri o sulle braccia, ciascuno è libero di stare in piedi, poggiare le ginocchia sul velluto, macinare la piuma sopra i ceci. Sian di pioggia, sian di cer, ciascuno è libero con le sue ali di avvicinarsi al sole o di sguaiare, sfracellarsi solo nei suoi occhiali. Ciascuno è libero di aprire le sette porte, pagarne il buio e non saper la chiave. Ognuno è libero di possedere un cuore, essere schiavo senza mai padrone. Lasciar la Stamberga, tutti in carrozza presto che si parte.